questo è bravo, soprattutto sulle valvole, ma non è dire riparare, è costruire, perché è un progettista lui. Ho visto dei amplificatori a valvole progettati da lui, ma cacchio, cose da paura, fatti attrezzati, cioè doppio mono, due settori mono, due amplificatori mono separati, con alimentazione separata con un altro stadio, guarda, cose da paura. Poi ho visto come ha lavorato sulle casse mie, che sono casse monitor, diciamo enormi, ha fatto un bel lavoro, poi mi ha messo un circuitino di protezione che non conoscevo con questa lampadina che c'è dentro, non mi ricordo che cazzo di sistema è che ha fatto, così tutte le frequenze parassite non ti bruciano il Twitter, un bel lavoro proprio. Poi mi ha fatto i calcoli dei crossover, delle bobine eccetera, vabbè, quello lo sapevo fare anche io, mi ha indirizzato da un amico per fare tutto, mi ha fatto i calcoli, e io li ho fatti, io le sfide su dei cilindri, abbiamo fatto un bel lavoro, mi ha calcolato i tubi d'accordo del coso, del reflex delle casse, ha ricalcolato tutto, ha fatto un bel lavoro. Grande persona, non ho più sentito quello lì, Mario Lontari, io non lo conosco personalmente di vista, però è amico di due amici miei, molto molto amico, ed è un grande lo stesso tecnico, molto bravo lui in riparazione di coso, solo che è lento, peggio del peccato, cioè ti dà un coso, una previsione di ritiro, ci sta 30 anni, conosco un sacco di amici, ne è passata la voglia, però è molto ma molto preparato anche lui. C'era un negozio tra le mani lì, Audiolinea, l'altro come si chiamava? Giorgio Spano, così. Vicino al microfono, adesso già stai andando. Ma è così troppo vicino, così per quello. Sembra più amplificata rispetto a prima. Mi sono messo avvicinato al microfono, ci sono, ogni tanto qui stacca la luce. Ah, così è meglio, forse è troppo distante poco fa. Ah no, va bene, anche prima di perfetta, adesso pure è troppo forte. Addirittura non ho toccato niente. Eccomi qua, sto dicendo a proposito di quelle signore lì, ti dici io mi ricordo una da casa sua. E lui si era costruito un amplificatore valvolare, sì, tutto con le sue manine, no, è un cranio quell'uomo. Ma poi ripara di tutto, anche frigoriferi, lavatrici, forno a microonde, ferri a stiro, di tutto si arrangia. Qualcosina di meccanica capisce, è venuto da me, gli avevo buscato un motore, lui aveva una, che macchina era? Ah, una Panda, nuova Panda, c'era un sacco di chilometri, poverino, anche lui gli ha morto la moglie. Ah, ecco, non capisco, forse per quello c'era. è chiuso, ma non lo sapevo, mi dispiace. Mi sa che non aveva neanche figli. No, c'ha un figlio, c'ha un figlio. Poverino, è morta nell'arco di breve termine, di malattia brutta, ma infatti era scioccato lui, infatti ne ha preso una droga, è normale, perché quando tua moglie la accompagna, lui era innamoratissimo di questa persona, brava donna, e come ne ho sentito parlare, purtroppo il destino è crudele, giovane pure, e poi questo figlio giovane, adesso non so quanti anni ci avrà, io penso 17-18 anni, questo ragazzino, ma è morta qualche anno fa, credo 3 anni fa, più o meno. Rimane sulla destra, aspetta per fare un confronto, cioè per esempio tu fatti tutto via Oriani, fino ad arrivare a via Granci dove c'è la Conad, sarà che c'è le scuole, prima, poco prima delle scuole, di lì sta dicendo, sulla destra. Diciamo come la testa è quello dell'Acci, che poi di lì era entrato quello di dischi, Zeno P su DJ, aveva fatto un negozietto di dischi. Se quello che sto dicendo io non era per lui fare il laboratorio, ha fatto delle porcaccionate, ho visto dei lavori da mettersi le mani in testa, ma cose da arrestare, proprio da arrestare. Se quello che sto dicendo io, salendo, cioè andando verso, scendendo per dire da Viale Trento verso su via Coso, la parte ascendente di via Oriani, lasciamo perdere, ho visto dei lavori che non è cavato piedi per un equalizzatore, ha fatto dei danni allucinanti. ha fatto un danno a mio fratello, proprio un incompetente. Alla fine l'ha preso in mano un'altra persona, ha chiamato un altro per metterci in mano, poi non ti faccio nome di un altro a Sassari, famosissimo, forse uno dei più famosi, un altro randaggio, proprio cose oscene. Io ho amici che sanno lavorare veramente, ma qua ho dovuto andare perché era un'assistenza, ma guarda, ad arrestare, ha rovinato una cosa e gli ha messo il componente dentro, cioè gli ha eliminato un integrato e gliel'ha lasciato dentro attaccato a scotch, per dirti, non ha cavato un bidi, cioè gli ha aiutato la cosa, ne ha sfasciato un altro. Non ce l'ho preso, ma ce n'è qualcuno bravo di rimasto, però c'era un sacco di gente prima che faceva questo scuola radio lettera e subito diventava accoso, oppure all'INAPRI e diventavi subito tecnico, li senti a parole, cacchio sono loro, poi gli fai fare qualche circuitino e si cagano sotto. C'è gente, conosco degli autodidatti, ma se li vedi lavorare sull'elettronica ti metti le mani in testa, fanno delle cose, ragionano per logica, mentre l'altro cambiano tutta la scheda, e poi magari un condensatore partito o una resistenza in coso scaldata. Io ho tanti amici che hanno lavorato, studiato di lì all'INAPRI, e uno in particolare che era il più bravo di tutti in assoluto, ma bravo, questo è proprio, è un genio dell'elettronica, poi è uno di quelli che fa ragionamenti, nel senso è disordinato che non ne può più. E lì mi parlava, ce n'erano un paio di persone molto brave, di professori, c'era Serra e questo Losito, erano due grandissimi professori. all'ospedale, non sono nello rientrato. E poi ce n'era uno bravissimo, poi era entrato in una ditta grossa nazionale, non mi ricordo se è entrato Fini o qualcosa del genere, questo era un mostro, lo stesso era un progettista questo qui, addirittura aveva vinto, mi ricordo benissimo, un premio per quello della rivista Nuova Elettronica. Tu grandissimo di età, aveva fatto ti dava questi concorsi, dicevano, ti davano un transistor, un paio di resistenze e altri tre componenti, una cosa del genere, e ti dicevano costruite un circuito più elementare possibile che funzioni, proprio il più economico possibile che funzioni. E anche questo ha preso una scatola di fiammiferi, quelli in cartone, ti ricordi quei fiammiferi, quelli lunghi, cos'era, le Minerva, non mi ricordo, le ha messo tutti i componenti di lì, ha usato quello come circuito stampato, con dei pezzettini di rame recuperati da non so da che figli, e le ha fatto questo circuitino, aveva vinto il primo premio proprio per la semplicità e la cosa elementare, nel senso di economica, perché ha usato tutte le scatole belle, e lui ci ha fatto tutto dentro una scatoletta di fiammiferi, ma tu vedi questo circuito, infatti è arrivato primo assoluto. Degli americani stai ricordo, mi sa che è rientrato Antonello, avanti Antonello. Buonasera a tutti. Cazzo, abbassa, sei distrutto distorto Antonello. Sa, tu lo so, poi se no, aspetta, adesso va bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutto qua, così si sa. Sì, cazzo, mi hai fatto spaventare, adesso va bene. Abbassa un po' Antonio, sei un bel troppo forte. Ah, sono forte. Cazzo, boh. E come devo uscire? Con la bambina. Ho un bel forte di radio, non di segnale, no? Lo so. È il tipo del lineare che sto usando adesso, hai capito? Ho cambiato lineare. Ma ne sta andando parecchio? No, in realtà no. la radio si sente un bel gracchiante, troppo amplificata la sento, cioè è chiara però è troppo forte. Ok, c'è l'Antonello di Ussi, però dice che è mancata la corrente, vediamo se è rientrato. Perché anche io adesso vado via, dai, che è già tardino. Ok, dai, ciao, allora mi dispiace che sia appena entrato tu e me ne sto andando io. C'è comunque Gianni Capri 2 e il figlio che è stand by, vabbè, si alterna il microfono. Dai, ci sentiamo magari domani mattina se c'è qualcuno e vediamo un po' di continuare la chiacchierata. Ciao a tutti, ciao Antonello, ciao Claudio, ciao Antonello Pompugno e Coso, e Gianni Capri 2. Dai, già ci aggiorniamo domani per farvelo. dopo gli ho capito, quello non c'è problema. Adesso siamo con lo, adesso col minimo, che è minimo, sono preso 5-10 watt, non di più. Così è a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, come era la... sto scendo con watt bassi, bassi, bassi, come era la, la modulazione, la così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aspetta, e così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po' che si cambia qualcosa. Il microfono amplificato, la verità, al mare, peccato che ho lasciato Giovanna che non funzionava, quindi è per quello. Vabbè, adesso domani cambio il microfono, vediamo un pochettino, se esce meglio o esce peggio. Thank you. Ciao, domani, stammi bene.